Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Di Irene Zerbini. Beh, belli agguerriti. Giriamo pagina oggi, 1 agosto, ancora buongiorno da Irene Zerbini. Se inciampiamo già sul cognome partiamo male. 19 minuti dopo le 8, avremo ancora 30 giorni insieme, 30 giorni che molti dedicheranno al riposo e altri, perché no, ma avendo del tempo a disposizione, per acquisire nuove conoscenze. E se avete domande, volete capirne di più, come ci segnalano in questo momento anche degli ascoltatori via SMS, su questioni borsistiche, su spread, su come regolare il proprio portafoglio rispetto ai cambi dell'economia, allo scenario macroeconomico, vi devo segnalare un'iniziativa, si chiama Il tuo portafoglio. È un'iniziativa del Sole 24 Ore che il Sole 24 Ore propone tutti i giorni, da domani. Attenzione, durante il mese d'agosto, dunque una pagina quotidiana che vuole aiutare i risparmiatori a riflettere su queste nuove tendenze dei mercati dopo una lunga fase di turbolenza, un po' per il debito pubblico in Europa e per altri fattori. Volete approfittare dell'estate per studiare queste scelte in vista del rientro dopo le vacanze? Farete impazzire. E poi chi compra titoli fa transazioni per voi, perché sarete preparatissimi da domani. Questa segnalazione doverosa, ora a spunti di vista affronteremo l'attualità, perché parleremo di Ius Soli, cittadinanza sì o no, si sventola questa bandiera sempre un po' in termini da stadio. Oggi noi vorremmo fermarci per chiederci, primo, in cosa consiste questo cambio di meccanismo per l'acquisizione della cittadinanza. Ius Soli, Ius Sanguinis, si utilizzano questi vocaboli senza capire spesso cosa implicano. E chi meglio di chi non ce l'ha la cittadinanza sa cosa vuol dire, cioè cosa comporta, che ostacoli esistono per coloro che la cittadinanza non hanno. Cioè, se mia figlia nata qua non avesse il passaporto canadese, crescendo si sentirebbe completamente scollegata, perché lei è canadese, è nata qui, e lo dico anche che certe volte anche mi stupisce, io che ho una figlia canadese come italiana, nata in Italia, cresciuta in Italia, e avere quel passaporto è importante per lei, sarà importante per lei. Adesso mia figlia ancora è piccola, ma io l'ho visto appunto anche parlando con molti ragazzi che crescendo hanno tutto di canadese, ed è giusto che loro lo siano canadesi, perché sono qui, e quindi penso che la stessa cosa sia per chi nasce in Italia. Siamo andati all'estero a vedere anche la situazione dei nostri cervelli in fuga, che fuori dalle frontiere si fanno una vita, si fanno una famiglia, hanno dei figli e a volte acquisiscono una doppia cittadinanza, perché l'Italia consente il mantenimento della doppia cittadinanza. Quali sono i benefici, i vantaggi? E lo ripetiamo, in Italia cosa non si può fare se quella cittadinanza non la si ha? Cercheremo di mettere dei punti fermi in questa discussione che è diventata un po' ideologica, un po' da stadio, e che invece ha delle implicazioni pratiche decisamente importanti. Dopo le 9 però, 800 24 00 24, questo è il numero di telefono da chiamare per i vostri input, e ancora 349 238 6666. E prima di arrivare a parlare di cittadinanza ci fermeremo con i nostri amici stranieri, quelli che l'Italia la osservano da fuori. Con noi oggi c'è, sentiamo un po' come lo annunciamo. Beh, è troppo facile però così. Così è troppo facile. Abbiamo capito, carissimo collega, corrispondente straniero, che guardi l'Italia da dentro, nel senso che ci abiti da un po', che probabilmente non vieni dal Lussemburgo, dico bene? Giustissimo, giustissimo. Ma ci sei stato, almeno ci sei stato in Lussemburgo, no scusa, adesso è una curiosità legittima, credo. Avete fatto una meravigliosa americanata per introdurmi. Sì. Ma scusami, cioè non è che abbiamo proprio imparato l'eleganza da voi, con tutto il rispetto. Aaron Mensah, americano giornalista, scrive per il Wall Street Journal. Aaron, welcome back, da quanti anni sei in Italia? Saranno, oddio, 15 più o meno. 15 anni che vivi fisso in questo paese. E cosa hai raccontato recentemente di noi ai tuoi connazionali? I pezzi che mi chiedono soprattutto trattano viaggio, cultura, varie realtà della vita italiana. Visto che da 15 anni sei qui e devo farti la domanda che comincia già a imperversare anche tra il pubblico, cioè perché rimani? Me lo chiedono spesso, ci sono tanti motivi, a parte l'amore, essendo sposato con un'italiana e con un figlio nato qui, che ovviamente ho fatto radici in questo senso, ma a parte questo apprezzo tantissimo l'Italia, ci sono tanti aspetti che credo che siano di gran valore. Per esempio, perché puoi anche entrare nel dettaglio. Sì, c'è sicuramente i più grandi, che il mangiar bene, il vivere bene, l'attenzione al chiacchierare, al parlare, a condividere la vita, sono tutti positivi. Poi io penso che l'Italia sia un posto di grande fermento, nonostante ciò che si dice. Lo definisco spesso un'esplosione nucleare a rallentatore, nel senso che ogni molecola va per sé. E questo è sì problematico quando si tratta di organizzazione, però è anche bello da vedere. Ma dopo 15 anni in Italia, tu parli con questi toni, voglio dire, quasi rassicuranti, e che si discostano molto da come gli italiani parlano di sé, l'hai notato? Infatti, dico spesso che non ho mai conosciuto un popolo così autocritico che gli italiani. Manca sempre una sana autocelebrazione, manca sempre. Questo un po' mi dispiace, sono gli stessi italiani, dico, che sono i loro primi e peggiori critici a volte. Mentre invece voi che arrivate da fuori e vi piazzate nella società italiana, a volte siete i migliori, quasi vorrei dire ambasciatori culturali, perché apprezzate e cogliete ciò che di positivo c'è. Ma forse l'Italia ha una percezione di sé, cioè l'italiano ha una percezione di sé molto sconfortante e disfattista, anche per come l'Italia si racconta all'interno delle proprie frontiere, cioè per il giornalismo italiano. Sì, i giornalisti non sono delicati con l'Italia, ma ho sempre sostenuto che in Italia il primo problema è che in Italia non esiste il giornalismo, almeno come lo intendiamo noi. Cioè, non esiste una presa di punta obiettivo e neutrale sui fatti quotidiani. Ognuno ci mette sempre un po' il suo becco. Quando spostiamo da raccontare obiettivamente una notizia a raccontarlo un po' come lo vedo io o come lo penso io, allora perdiamo anche autorità. Quindi in Italia dico sempre che non c'è giornalismo, ci sono dei bravi giornalisti. Ci sono dei bravi giornalisti, colleghi che tu stimi, ma non c'è quella scuola, quel mestiere della separazione poi del racconto. Ma cosa succede invece a voi giornalisti americani rispetto ai giornalisti italiani? C'è qualcuno che vi chiama e vi fa pezzi il pezzo? Scusa il gioco sì, di parole. Non qualcuno, ma diverse persone. Per chi comincia come giornalista, c'è una falange di redattori dietro che fanno a pezzi anche un paragrafo. E quindi si comincia con diverse persone che ti criticano ciò che scrivi, che succede sicuramente anche qui. Penso che la critica in Italia magari si rivolge più allo stile, mentre quello americano e direi quello anglosassone in generale tende a criticare l'obiettività del pezzo, dicendo non puoi dire che non puoi dire questo o quello particolare, perché ci stai mettendo il tuo opinione, raccontami soltanto i fatti, poi devi correre indietro, riscriverlo, ripresentarlo, e questo succede diverse volte, in modo che alla fine esce un pezzo obiettivo. E succede, lo precisiamo, anche in TV e anche in radio. E noi tra poco affronteremo la tematica dello Ius Soli, allora devo chiedertelo, hai la cittadinanza italiana o la richiederai? No, non ce l'ho, ho il permesso permanente. Qui avevo cercato anche di chiederlo, mi ero informato, ma la pratica burocratica era talmente complesso e talmente lungo che alla fine l'ho abbandonato. Mentre tuo figlio? Mio figlio nasce con il doppio passaporto. automaticamente con quello americano bastava registrarsi all'ambasciata e ce l'hanno fornito subito il suo passaporto. Questo era un grande vantaggio, era molto semplice, e ce l'hanno spedito addirittura a casa, che è rimasto sconvolta mia moglie, ma italiana, per questa modalità così pragmatica dello spedire un passaporto molto a casa. Semplice. Tua moglie italiana non era abituata. Una cosa che esporteresti dell'Italia negli Stati Uniti, escludo il cibo perché già ce lo nominano tutto, se potessi in 10 secondi, Aaron? Direi la capacità italiani di credere ognuno di poter fare per sé. Grazie, grazie Aaron Mains, è rimasto con noi questa mattina, scrive per il Wall Street Journal e ci ha aiutato a guardare questo paese da fuori. Grazie a voi, buongiorno. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Era inevitabile che facesse parlare. 33 minuti dopo le 8, ancora un saluto da Irene Zerbini. E mi sto riferendo all'articolo del professor Umberto Veronesi, ieri su Repubblica. Le parole sono importanti, questo è il titolo di questa analisi firmata da Veronesi. Allora, aboliamo la parola cancro. E inevitabilmente oggi si spendono delle posizioni e di chi col cancro ha a che fare tutti i giorni in quanto medico e di chi invece ne ha a che fare in quanto malato, in quanto sopravvissuto. Un'altra parola che indicano alcuni andrebbe cambiata, modificata. Come regolarsi? Non è certamente solo una guerra di termini, ma rientra in quel rapporto molto delicato tra medico e paziente che solo loro, solo gli oncologi e gli addetti alla comunicazione dei più grandi istituti di oncologia italiani possono spiegarci meglio. Per questo ringrazio per averci dedicato del tempo, la saluto perché è qui con noi l'autrice de Il male dentro, si chiama Giovanna Luini. Dottoressa Luini, buongiorno. Buongiorno Irene, buongiorno a tutti. La sorpresa questa colonna su Repubblica ieri mattina. No, conoscendo il professor Veronesi, no, perché è da anni che combatte perché alcune parole siano modificate oppure abbandonate, quindi non sono sorpresa. Mi sorprende di più l'idea che si possa abolire una parola. Ecco, secondo me abolire una parola, se la parola è cancro, quindi una parola che è nel linguaggio comune, è molto difficile se non impossibile. Se invece andiamo a osservare la parte di Veronesi che è più scientifica, allora capiamo che lui allude alla parola carcinoma, quindi a ciò che è il cancro per il linguaggio medico, no? La parola carcinoma ha un valore di paura, di terrore, un valore molto oscuro, ha un valore molto simile a quello dell'idea della morte, perché il carcinoma spesso viene definito infiltrante, no? Quindi sono parole che, insomma, se riferiamo al nostro corpo, al corpo di chi amiamo, fanno davvero paura. E allora, lei che sì, lavora all'OIEO, tra l'altro sì, è senologa sì, e sì, comunicatore scientifico, sa quanto cruciale sia, sa quanto delicata beh, sì, sia la scelta di un termine nell'incontro, nella comunicazione con sì, il paziente e i familiari. Però c'è chi tra i suoi colleghi dice: quanto sostenuto da Veronesi non cambia la sostanza, è inutile che ci beh, nascondiamo dietro un dito. Sto cercando di sintetizzare un po' gli beh, stimoli che sono arrivati da vari pulpiti e da varie cattedre, non discutiamo di quello che conta è il rapporto col paziente. Se c'è un rapporto autentico, se c'è un rapporto di fiducia, si può dire qualunque cosa. Ma non era un invito all'ipocrisia quella di Veronesi? No, non credo. In realtà sono sempre favorevole all'assoluta libertà di chiunque di gestire il proprio rapporto con gli altri, quindi la libertà del medico di gestire il rapporto col paziente. È assolutamente vero che la parola cancro possa essere usata se si vuole. Io personalmente non la uso mai, non la uso quando parlo con i pazienti e non la uso quando scrivo articoli o libri. Questo perché so che cancro in sé evoca la morte, evoca il granchio che si impossessa degli organi e li distrugge. Questo nulla ha a che vedere con l'abolizione di una parola, personalmente non mi sognerei di chiederne l'abolizione. Che il medico possa dire qualunque cosa in nome del proprio rapporto col paziente non mi trova d'accordo, perché occupandomi tutti i giorni di comunicazione scientifica e con i pazienti, ritengo che si debba essere molto attenti, si possono dire le stesse cose con toni e parole differenti, soprattutto si possono dire le stesse cose senza rischiare di evocare nel paziente che abbiamo davanti il pensiero della morte, che in sé non è negativo, perché la morte fa parte della nostra vita, dipende da come evochiamo questo pensiero. E lei come si regola? Io lo chiederò tra pochissimo. Sì. Ora vorrei coinvolgere nel colloquio anche una sua collega, dottoressa Gemma Martino. Buongiorno. Buongiorno Irene. Gemma Martino è direttore di METIS, cioè un centro studi in oncologia di formazione e terapia, e coordina gruppi per l'informazione e la comunicazione per la forza operativa del carcinoma mammario. Questo è il METIS dove lei oggi lavora, lei è stato anche primario all'Istituto dei Tumori, insomma ha una lunga storia, ha contatto con i pazienti, ha contatto con i suoi colleghi. Che importanza ha per voi la comunicazione? Innanzitutto non è una parola teorica, è una prassi multimediale, nel senso che molto spesso ci chiedono come possiamo lavorare, come possiamo dire ai nostri pazienti certe cose, e la situazione non è così lineare. La comunicazione, come tutti sappiamo, è una circolarità, ha un modo di dire, un modo di avere delle risposte, e nelle risposte un modo di riadattarsi alle risposte da parte del medico. Questa, la rigidità fa parte di una paura stessa del medico, e quindi la difficoltà di comunicare è una difficoltà soprattutto del medico, che sa di raccontarsi anche delle storie, perché nel dare sicurezza alle persone sa di stare mettendo. Quindi il lavoro è più sul dare insicurezze e non sicurezze, in un ambito in cui nessuno di noi sa esattamente come andrà a finire la storia. Dottoressa, se le dicono che un suo collega oncologo, ottimo oncologo, è un pessimo comunicatore, troppo brusco, lei lo giudica comunque un ottimo medico? Sì, sicuramente sì, ma perde una parte dell'arte della cura, che è la relazione terapeutica. La relazione terapeutica è particolarmente importante in questo settore, o come sostengono alcuni dei suoi colleghi invece è meglio illustrare sempre al paziente gli scenari peggiori, così che poi sia preparato? No, non esiste una comunicazione, un'informazione scientifica senza una relazione terapeutica. Tutto passa dalla relazione, come anche diceva Giovanna, se c'è una modalità di empatia, di rapporto con la persona, molte situazioni, molte informazioni possono essere coperte da una mistificazione, ma possono essere condivise e quindi essere più forti nell'essere accettate. E lei si confronta spesso, immagino, con altri oncologi, questa è una tematica che affrontate quotidianamente, al di là della diagnostica, al di là del contatto col paziente per invece individuare delle terapie. Lei ha visto che la generazione di medici in Italia negli ultimi anni, insomma, è cambiata su questi temi, è più sensibile, ci sta più attenta? No, direi invece che è più spaventata, perché le informazioni sono tantissime, internet insegna, le persone arrivano che sanno quasi tutto, i medici sono spaventati di tutta questa informazione, che retroinformazione che viene dai pazienti, e non sanno gestire la relazione e la ridefinizione di sé nel dire io sono il curante, io posso aiutarti, oltre a questa incertezza, questa multi-informazione che hai, che dà comunque confusione. I medici giovani sono assolutamente spaventati, quasi come le pazienti o i pazienti, di dover gestire una serie di informazioni, che hanno un'ultima analisi, vogliono una certezza che non esiste. Oggi le cause dei tumori diffuse sono conosciute, scrive Umberto Veronesi, pubblicato ieri su Repubblica, e mediamente il 60% guarisce se diagnosticato per tempo. Anzi, per alcune neoplasie come mammella, prostata, tiroide, eccetera, si arriva fino al 90%. È davvero tempo di cambiare nome a questa malattia, arriva alle conclusioni, e noi proponiamo neoplasia e di scacciarne i fantasmi, così come dobbiamo smettere di chiamare gli ex malati sopravvissuti. Si sopravvive a una calamità, una guerra, un incidente, un evento catastrofico, insomma, in cui solo per miracolo ci si sottrae alla morte. Ma oggi il cancro, sostiene Veronesi, è una malattia curabile nella maggioranza dei casi e non deve spaventare. Le parole sono fondamentali nel linguaggio del dolore. E dunque, dottoressa, rivolgo la domanda a lei: è per l'abolizione della parola cancro? No, io non sono per l'abolizione della parola, sono per la ridefinizione di tante modalità di avere un tumore. Come dice Veronesi, molte malattie cancerose sono più guaribili di altre, quindi bisogna insistere sulla differenza e non sull'omologazione. Non esiste il cancro, esistono moltissime problematiche, malattie tumorali che possono andare bene e possono andare male, anche quelle che vanno molto bene potrebbero andare male per la singola persona, però sono malattie che dobbiamo imparare a concepire come croniche, come possibili recrudescenze e comunque non per forza agganciate al morire, ma agganciate a una vita possibile con anche una qualità soddisfacente per certi tipi di malattie e certi tipi di terapie. Quindi è la differenziazione che ci porta a rassicurare i pazienti, perché la realtà è che c'è una differenziazione e una risposta diversa per tipo di patologie, e nello stesso tipo di patologie ancora una volta una sottolineazione di una differenziazione di positivo e negativo. C'è rapporto diretto con i pazienti, e poi nel ruolo di comunicatori che avete entrambi, lei e la dottoressa Luini, sapete bene che c'è il rapporto ancora più delicato con i familiari. Alcuni genitori, per esempio, non dicono ai ragazzi quello che stanno attraversando per paura di spaventarli. E anche su questo ci si è fatti delle domande. Tra poco vi chiederemo, voi che lavorate in prima linea con i pazienti tutti i giorni, quale sarebbe il procedimento corretto, se esiste poi una procedura che si può tracciare. Lei ci ha indicato a più riprese quanto sia soggettivo, quanto sia importante trattare caso per caso, cioè porsi di fronte a ogni paziente non con uno schema predefinito, ma prendendo in esame quella situazione, quella psicologia e quel tipo di paure, quel tipo di domande che ci vengono poste man mano. E se di domande ne avete anche voi da porre alle dottoresse oggi nostre ospiti, vi ricordo 800 24 00 24. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. The thing is that sometimes they're gonna feel bad about themselves, and they're gonna feel sad, and they're gonna feel angry, and sometimes you're gonna feel sad and you're gonna feel angry, and is that okay? No, that's not healthy. It's okay. It is okay. No, she said it's not healthy to punch a wall. E sentite queste voci, quella che parla un'educatrice e sta parlando a un gruppo di bambini, cui genitori sono malati di, in alcuni casi, di neoplasia, in alcuni casi di cancro. Sono gruppi organizzati all'interno degli ospedali americani proprio per trasmettere una forma di sostegno e di durante la quotidianità, la vita con la mamma, con il papà che andrà a seguire delle terapie nei giorni a venire. E si parte subito in maniera molto franca. In alcuni giorni vostra mamma, vostro padre sarà molto giù, si sentirà molto depresso e sarà anche, chissà, arrabbiato, e questo è giusto? E si sottopongono queste domande ai bambini in questi gruppi di sostegno. Beh, un altro aspetto della delicatezza della comunicazione. Professoressa Luini, si fa qualcosa di simile negli ospedali italiani? Dovremmo fare di più. Io personalmente mi sono formata ai corsi di Gemma Martino e sono corsi che io raccomando sempre ai quantomeno ai centri di eccellenza, ma dovremmo averli in tutti gli ospedali. Perché? Perché proprio la comunicazione ai bambini, ai ragazzi, è un esempio di quanto non si possa lasciare solo al talento e all'istinto del singolo questo genere di comunicazione. Ci sono tecniche, ci sono situazioni che vanno imparate e, come diceva Gemma, prima di affrontare questo genere di incontro bisogna risolvere con se stessi l'incertezza, la paura, l'ansia e i dubbi su ciò che stiamo facendo. Capita più spesso in realtà in Italia di consigliare ai pazienti come parlare coi figli. È più difficile che siano i professionisti della medicina, i medici, a parlare con i bambini, anche se questo può accadere. Diciamo che è un ottimo esempio di quanto si debba preparare il personale alla comunicazione e non lasciare all'istinto o al talento del singolo. Alla discrezione o anche al momento, perché ci sono momenti anche di estrema stanchezza, diciamolo, all'interno di ogni singolo medico o singolo oncologo. E quindi essere preparati anche a quei momenti di debolezza. Molto interessante questa franchezza che avete voi sulla disorientamento che a volte, lo spavento che a volte lo stesso dottore ha. Sentiamo anche come la pensa la gente. Buongiorno, pronto Franco? Sì, buongiorno, io sono Franco da Piacenza. Buongiorno a tutti. Sì. Dunque, il mio contributo da questo punto di vista non è quello di un medico, ma è quello di un esperto di comunicazione. E quello che volevo segnalare è semplicemente questo, che dal mio punto di vista la comunicazione può essere terapia. Nel senso che se il medico vuole nei confronti del paziente fare in maniera tale che reagisca positivamente alla malattia, probabilmente le parole che lui esprime possono, diciamo, influenzare in maniera determinante il suo atteggiamento nei confronti della malattia e quindi, diciamo, di un'eventuale evoluzione in senso positivo. Questo è indubbio, ma lei nota che questa sensibilità c'è nei medici italiani, tra i medici? La sensibilità, come hanno anche detto, diciamo, le due relatrici prima di me, è una cosa estremamente limitata. Una sua relatrice ha detto che un buon medico, anche se non sa comunicare, diciamo che dal mio punto di vista la capacità di comunicare, quindi in qualche modo di proporre delle soluzioni al paziente, fanno parte di un buon medico, del buon medico di famiglia che c'era una volta, quindi che sapeva non solo attraverso la prescrizione medica, ma anche attraverso quello che ti diceva, il modo in cui si comportava, poteva, diciamo, determinare un'evoluzione positiva del tuo stato. Franco, grazie mille per questo contributo. Pronto, buongiorno a Giorgio. Buongiorno, vorrei raccontare un'esperienza di 5 anni fa. Vado a fare un'ecografia. Il medico, dopo aver fatto l'ecografia, mi legge il referto, mi guarda fisso negli occhi, gli vengono gli occhi rossi, rossi terribilmente, mi guarda fisso e mi dice: ma hai fatto la biopsia? Dico: ma veramente? Il medico mi ha detto che bastava prendere un antibiotico. Ma come? Ma lo vedi che qui hai un cancro? Cioè, questa comunicazione da sola mi avrebbe fatto morire. Se io non avessi reagito facendo dei potenti corsi di formazione miei, me la sarei vista brutta. Il mio medico, poi che ho cambiato medico, mi ha detto che a quelli come me gli facevano un po' di raggi per tirare avanti qualche mese. Giorgio. Direi che i signori medici potrebbero fare dei bei corsi di formazione, visto che fanno tanti anni di scuola, ma soprattutto durante la professione dovrebbero fare dei corsi di formazione perché sulla comunicazione. Giorgio, è proprio il tema che stiamo affrontando in questa trasmissione con due delle più attive in Italia comunicatrici scientifiche e formatrici di medico. Gemma Martino, ora la chiamo in causa un'altra volta perché, come ha sentito, spesso c'è questo malcontento negli italiani che hanno avuto a che fare con questioni legate all'oncologia proprio per il modo in cui è stato comunicato loro. Non vogliamo dire un verdetto, ma è stato comunicato come lo fosse spesso, anche quando non lo era, al di là dell'utilizzo o meno della parola cancro. E come risponde a questo ascoltatore con questa esperienza? Che hanno assolutamente ragione. La maggior parte di queste malinformazioni sono dovute al fatto che è il medico più spaventato dei pazienti. Nessuno fa sostegno ai curanti, soprattutto quelli che praticano l'oncologia, di come sostenere la propria impotenza rispetto a certe terapie e certe comunicazioni. Ma ci spieghi meglio quello che lei fa, dottoressa, perché anche la professoressa Luini ci ha spiegato di aver preso parte ai suoi corsi. Cosa fate in questi corsi di formazione per quel che riguarda la comunicazione al paziente? Cosa insegnate? Come agite? Si fanno per esempio delle simulate rispetto alle problematiche che i formandi pensano di avere nella loro pratica medica. Se nella pratica medica c'è stato un problema grosso come quello che ha raccontato l'ascoltatore in precedenza, di una comunicazione errata, di una retroazione da parte dei pazienti aggressiva, come è giusto che sia, e loro non riescono a sostenere l'aggressività dei loro pazienti, si fanno delle simulate che poi vengono riviste continuamente in videoregistrazione e valutate laddove la persona ha incominciato l'aggressione rispetto a quella che l'ha ricevuta. Ecco, è una modalità, è un modo di poter affrontare una situazione più profonda partendo da cambiamenti di comportamento visivo e attivo. Ora ci scrive un ascoltatore o ascoltatrice, devo scorrere per capire, la firma non è indicata, che 3 anni fa è stato diagnosticato qualcosa all'Istituto dei Tumori di Milano e sulle carte era sempre scritto come cancro, però poi i dottori le negavano questa parola e a domanda diretta hanno risposto che no, lei non aveva avuto un tumore. Ad oggi è molto confusa. Dottoressa Luini, la chiamo in causa un'altra volta. Questo appello all'abolizione della parola cancro può generare anche questo tipo di domande, confusioni. Ma un esempio, io non so se si tratti di questo e non lo posso sapere, però alcune parole che sono sempre state utilizzate per indicare per esempio le lesioni pretumorali, che sono benigne ma che nel tempo possono diventare maligne, possono causare confusione. Per esempio il carcinoma intraduttale, no? Proprio quello che nomina Veronesi tra l'altro nel suo articolo. Esatto, il carcinoma intraduttale si chiamava carcinoma e quindi la persona che lo aveva o lo aveva avuto riteneva di aver avuto il cancro, no? Questo non era vero, perché in realtà aveva avuto sicuramente una condizione precancerosa, cioè benigna, ma da togliere perché nel tempo, negli anni, avrebbe potuto diventare tumorale. Però con la parola carcinoma è chiaro che le emozioni, le fantasie, le paure diventavano quelle di una persona affetta da tumore. Quindi, senza alcuna distinzione, è chiaro. Quindi sì, abbiamo bisogno di una definizione di cancro del 21esimo secolo e abbiamo ancora una definizione di cancro da 19esimo secolo. Questa è una dichiarazione dell'American Cancer Society ripresa al New York Times e che lei farebbe sua? In parte, guardi, io credo che sì, va bene, posso sposare la definizione, in realtà mi importa molto di più che non sia demandato a un foglio la diagnosi di un paziente, cioè, ma è la relazione che fa la diagnosi, no? La relazione che spiega la diagnosi, per cui va bene, mettiamoci d'accordo sulle parole, ci sto, ma ci sto ancora di più se prima prepariamo i medici alla comunicazione, e non solo i medici, il personale che si occupa dei pazienti. Una sottolineatura decisamente importante, grazie per questo vostro contributo alle dottoresse, oncologhe, specialiste di comunicazione Giovanna Luini e Gemma Martino, che questa mattina sono state con noi. I malati di cancro in Italia vivono più a lungo rispetto alla media europea, 5 anni dalla diagnosi, può dire di avercela fatta il 52,3% degli uomini, la media europea è 46,5% e 60,6% delle donne. Questo è un dato reso noto in settimana dalla Fondazione Francesco Cognetti. Spunti di vista, i 1000 aspetti dell'attualità. Caro presidente, più di 500.000 di persone che vivono nascoste straniere in questa nazione. Ci sta Daniel, ci sta Mir, c'è Simone. Vogliamo i nostri diritti, non chiediamo un favore. Ci nasci, ci cresci, la ami, la vivi. A 18 costretti a fuggire come clandestini. Beh, questa è l'espressione della cultura scoppiettante che arriva anche dai giovanissimi, giovanissimi italiani che hanno, sono portatori della cultura dei genitori e della cultura italiana. E così apriamo questa trasmissione sulla Ius Soli. In questi giorni si è discusso in maniera molto ideologica delle proposte relative alla concessione, come si dice, della cittadinanza a chi vive in Italia e non ce l'ha per ius sanguinis, cioè non è figlio di italiani. In realtà abbiamo scoperto si conosce poco la materia. Quando si parla di cosa comporterebbe avere questa cittadinanza e soprattutto di cosa comporta oggi allo stato di fatto, cioè non averla anche se si è nati su territori italiani, e i termini si fanno decisamente confusi. Cerchiamo di far chiarezza per comprendere in quale direzione andare, perché sono circa 20 le proposte di legge che sono state depositate e non vengono tutte da sinistra. Attenzione, sono diversi partiti che si sono occupati di una modernizzazione in qualche modo della materia che dovrebbe andare al di là dei confini di appartenenza ideologica per sanare una situazione di fatto che riguarda 6 milioni di potenziali nuovi italiani. Quali sono i modelli? Dove guardare? Soprattutto come regolarsi nel caso piuttosto unico dell'Italia, così da non mutuare tout court modelli che, se importati, potrebbero anche produrre delle ingiustizie, come teme qualcuno, addirittura causare delle retromarce, come è già successo, perché attenzione, in Grecia si è andati in quella direzione, prima un'implementazione quasi forzata, quasi frettolosa, e 3 anni dopo una legge che è stata definita incostituzionale, con i disagi, come potete immaginare, per tutti i G2 greci che si trovano ora a fare i conti con un'identità ancora più confusa. Cosa fare in Italia? Lo chiediamo a voi, 800 24 00 24 il numero telefonico, e per i vostri sms 349 238 6666. Buongiorno e grazie per averci dedicato questa possibilità di approfondimento con lei, a un docente di economia politica dell'Università di Modena, Reggio Emilia, è una delle maggiori esperte di tutte le proposte di legge che sono all'esame della Camera in questi giorni. E lei è Graziella Bertocchi, professoressa Bertocchi, buongiorno. Buongiorno. Dunque, partiamo da quello su cui si discute, chiarendo innanzitutto dei termini. Ius soli, ius sanguinis, qual è la differenza? Dunque, la differenza sta nella modalità con cui si può acquisire alla nascita, quindi stiamo parlando di bambini, la cittadinanza di un paese. Con il sistema dello ius sanguinis la cittadinanza è ereditata dai genitori indipendentemente da dove si nasce, mentre con lo ius soli, con lo ius soli puro, la cittadinanza è quella del paese dove il bambino nasce, indipendentemente da quella dei genitori. In questo momento in Italia come funziona? In questo momento abbiamo, diciamo, uno degli ius sanguinis più puri che esistono, che al mondo non è l'unico paese, naturalmente l'Italia, che ha lo ius sanguinis. Quindi in Italia i figli di cittadini italiani, ovunque nascano, anche all'estero, sono automaticamente italiani. Basta che uno solo dei genitori, o il padre o la madre, indifferentemente, sia italiano, perché il bambino sia italiano. Non esistono elementi di ius solis, in quanto se un bambino nasce in Italia, ma se nessuno dei due genitori è italiani, non ha nessun diritto nell'immediato all'acquisizione della cittadinanza italiana. E Paolo da Udine però ci segnala, sì, dopo 10 anni di residenza lo straniero può chiedere la cittadinanza, quindi mettiamo, sì, fine a questa discussione, perché la legge esiste. Lo straniero maggiorenne, quindi è vero che se il genitore chiede la cittadinanza, normalmente queste richieste vengono fatte per l'intera famiglia, quindi il bambino potrebbe, in virtù della, in risposta anche all'ascoltatore, no? La domanda era sui diritti acquisibili alla nascita, quindi alla nascita si parla di ius solis o di ius sanguinis, e questa era la mia risposta, no? Ci sono altri modi di acquisire la cittadinanza, come diceva l'ascoltatore, si può diventare cittadini dietro una richiesta, no? Ma non è un diritto alla nascita, anche a seguito di matrimonio si può diventare cittadini, sono queste le tre a grandi linee le tre modalità oggi esistenti. Guardiamo al di là dei nostri confini, in Europa il modello prevalente qual è? Ma il modello prevalente si sta evolvendo negli ultimi anni e sta emergendo una convergenza verso un sistema misto, che è un po' quello che si riflette nelle varie proposte di legge a cui lei ha accennato, no? Quindi diciamo così, c'era lo ius solis puro o quasi puro, c'era nei paesi di diritto anglosassone, ma ormai non esiste più in Europa, quindi non c'è nessun paese in Europa che dia automaticamente alla nascita, senza nessuna diciamo qualificazione o restrizione, il diritto di cittadinanza ai bambini figli di immigrati. L'ultimo paese che aveva ancora questo sistema era l'Irlanda, che però l'ha abolito nel 2004 con un referendum, quindi l'Irlanda è stato l'ultimo paese di ius soli puro in Europa. Perché lo ha abolito? Perché si era creato, mi interrompa se sono troppo nel dettaglio, ma è interessante il caso dell'Irlanda in questa luce. I vari progetti di legge esistenti oggi in Italia sono stati accusati da molti di favorire un turismo della cittadinanza, no? Che, come spero avrò modo di spiegare dopo, è un timore non fondato. Nel caso dell'Irlanda era un timore invece fondato. Perché? Perché l'Irlanda era rimasto l'unico paese dell'Unione Europea con lo ius soli puro, quindi con un viaggio in Irlanda per una donna, diciamo anche in avanzato stato di gravidanza, significava nel giro di poche settimane poter acquisire una cittadinanza che non era solo puramente irlandese, ma che era anche europea. Quindi diciamo sono stati questi casi di turismo della cittadinanza? Non ho un numero, ma era il turismo della cittadinanza in Irlanda si stava rivelando un problema. E quindi lì c'è stata una retromarcia? Con un referendum che era, diciamo che lo ius solis in Irlanda era un sistema in vigore, possiamo dire, da secoli, no? Quindi c'è stata questa virata, non la chiamerei un ritorno indietro, perché non ci sono tracce di altri sistemi in Irlanda negli ultimi 100-200 anni, siamo in questo ambito, quindi con un referendum, lo strumento legislativo previsto per quel paese, ogni paese ha diverse sfumature, insomma, nel modo di implementare questo tipo di legislazione, è stato abolito lo ius solis, è arrivato un sistema misto. Quindi da una parte è sparito lo ius soli puro in Europa, possiamo dire totalmente a questo e ci punto. Sono sempre questi sistemi misti? Ci sono anche dei paesi, c'è da dire, con sistemi puramente ius sanguini, quindi simili all'Italia, sono 14 attualmente nell'Europa allargata, faccio un esempio, la Svizzera è un paese con uno ius sanguinis puro che non prevede alcun diritto di tipo ius soli, e anche direi tutti i paesi dell'est sono ancora oggi paesi di ius sanguinis. E quando però, invece parliamo di regimi misti, sì, come li ha definiti, cosa significa? Cioè la cittadinanza non si acquisisce alla nascita, ma? Dunque, ci sono anche lì, il regime misto ha la caratteristica di essere abbastanza differenziato, no? Sono stati inseriti in tempi diversi, in paesi diversi e con origini diverse, perché abbiamo il regime misto innestato in una tradizione di ius soli, pensiamo all'Inghilterra che aveva fino a 20 anni fa lo ius soli, ci sono regimi misti innestati su tradizioni di ius sanguini, quindi le modalità non sono identiche. Diciamo che sono una ventina adesso i paesi europei che hanno regimi misti, più o meno diciamo aperti all'immigrato, per aperto intendo verso la concessione dello ius soli, ma è sempre in qualche modo temperato. Il modello tedesco prevede lo ius soli alla nascita al figlio di immigrati qualora gli immigrati siano residenti da almeno 8 anni. A proposito di modello tedesco, visto che molti italiani vivono in Germania in questi giorni, ci segnala un ascoltatore: non è vero che l'Italia, come era stato detto all'inizio di trasmissione, concede la doppia cittadinanza perché mia cognata ha dovuto scegliere tra italiana e tedesca e vive in Germania. Sì, ma in questo caso è un errore. È un errore. La concede, è la Germania che non concede la doppia cittadinanza. Germania a costringere questa persona alla scelta. Ed è una scelta che molti italiani all'estero hanno dovuto affrontare anche in passato, e dovendo scegliere tra la cittadinanza del paese che li ha accolti e la cittadinanza italiana. Questo però ora non è più richiesto dall'Italia, che concede anche... L'Italia prevede tranquillamente la doppia cittadinanza. Nel caso dell'ascoltatore il problema, se lo vogliamo chiamare un problema, comunque la questione era la Germania. La Germania non concede la doppia cittadinanza, quindi se uno vuole acquisire o mantenere una cittadinanza tedesca deve rinunciare all'altra. Per un'impostazione che ormai la Germania si trascina da decenni e che non è nemmeno in discussione in questo momento, nonostante la presenza sul territorio di moltissime persone. Ci sono state importantissime riforme in Germania, il sistema che ho citato un attimo fa degli 8 anni di residenza legale per i genitori, che permette al bambino lo ius soli, è una riforma recente che è stata inserita dopo la caduta del muro, quando la Germania in qualche modo ha recuperato una sua unità etnico-linguistica, diciamo così, dopo i decenni legati alla fine della seconda guerra mondiale e la guerra fredda, ed è stata abbastanza un'innovazione quella tedesca di prevedere lo ius soli per i figli di residenti. Gli anni indicati nel caso della Germania sono stati 8, ci sono altri paesi che hanno lo stesso principio con un numero variabile di casi. Per parlare subito, per anticipare la descrizione delle proposte oggi all'esame in Italia, nella maggior parte dei casi si parla di residenza legale dei genitori per 5 anni. Per 5 anni, più o meno quello è il punto intorno al quale si discute. Siccome questa legge devono essere molto condivise, chiaramente è importante chiarirsi su questo tipo di innovazioni. Ci sono state proposte che prevedevano invece una permanenza inferiore in termini temporali dei genitori, e la situazione attuale, come sapete, prevede 10 anni, e poi la persona maggiorenne nell'arco di un anno, si apre una sorta di finestra, deve e può ottenere la cittadinanza. Ma prima di concludere con lei, professoressa Bertocchi, sentiamo anche i nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Pronto? Buongiorno, Marco. Buongiorno a entrambe. Io volevo portare la mia testimonianza, perché io fino a due settimane fa ero cittadino croato e ho richiesto la cittadinanza per me stesso, perché i miei genitori non volevano, volevano tenersi quella di nascita, e io appunto l'ho richiesta 2 anni fa e mi è stata concessa, mi è arrivato il decreto di concessione proprio 2 settimane fa, e il prossimo step è sostanzialmente il giuramento di fronte al sindaco del mio paese, Piombinodese, in provincia di Padova, dove appunto effettivamente otterrò la cittadinanza e quindi la possibilità di cambiare i documenti e insomma ottenere anche la possibilità di votare. Ecco, questo è stato un po' il mio obiettivo dopo 18 anni in Italia. Quindi perché è importante per lei la cittadinanza, Marco? Per me è stata importante perché sono arrivato che ero veramente piccolo, avevo 7 anni, e quindi giustamente mi sono molto integrato, quindi praticamente un po' gli studi, il lavoro, per cui sì, sia per avere la possibilità di votare, ma proprio per un senso di appartenenza allo Stato italiano. Ecco, proprio io un po' mi sento italiano, quindi ho... dopo 10 anni di residenza, più dovevo avere 3 anni di lavoro, comunque di redditi dimostrabili, questo era una prerogativa che richiedeva lo Stato italiano. E che lavoro fai? Allora, io adesso sono un rappresentante per una grossa multinazionale di elettronica di consumo e giro parecchio, fatalità adesso sto andando a Modena, e quindi insomma un lavoro piuttosto dinamico, richiede insomma moltissimo dialogo con le persone. E quindi hai portato a testimonianza, diciamo così, a corredo della tua richiesta di cittadinanza anche questa tua situazione lavorativa? Sì, diciamo che questo mi ha permesso insomma di ottenerla. Ecco, una nota da insomma segnalare, che solitamente ci impiegano più di 2 anni, addirittura anche 3 o 4 anni, Io invece sono stato abbastanza fortunato, quindi entro 2 anni mi è arrivato già il decreto di concessione. Ma quali vantaggi ti chiede un ascoltatore concreti in tempo reale, al di là del senso d'appartenenza, che comunque è decisivo per contribuire a una collettività, il senso di inclusione? Quali altri vantaggi in pratica si ha con l'ottenimento della cittadinanza? Cioè, quali porte ti sarebbero state chiuse senza questo famoso documento? Beh, fatalità, la Croazia il 1° di luglio è entrata nell'Unione Europea, quindi io fino a prima avevo la carta di soggiorno per poter risiedere in Italia, e da quel momento in lì, insomma, fondamentalmente non mi sarebbe stata più utile. Io l'avevo un po' richiesta sia giustamente per la possibilità di votare, perché mi interessa molto la vita politica italiana, sia eventualmente per un quindi futuro. Quindi litigherai sicuramente un po' di meno con la burocrazia, ma in pratica... Sì, anche per la richiesta magari di un mutuo, sostanzialmente, giustamente, sì, croato, cittadino, metti che comunque italiano, potrebbe eventualmente portarmi qualche più vantaggio, qualche più, insomma, sì, giustamente a livello burocratico potrei essere più avvantaggiato. Quindi appartenenza e anche dei vantaggi strumentali che agevolano la vita. Per ora questo ci è stato segnalato, questo in pratica il beneficio dell'ottenimento della cittadinanza. Ora noi ci spostiamo in Canada, perché vi abbiamo anticipato un discorso con un'italiana all'estero, rappresentativa però di diverse situazioni, perché la fuga dei cervelli che porta circa 24.000 laureati ogni anno a lasciare l'Italia naturalmente porta anche questi giovani che rappresentano un'emigrazione di tipo moderno ad avere a che fare con la legislazione dei paesi in cui si trovano. Ora abbiamo disturbato ieri, per non svegliarla alle 4 del mattino, a Toronto una ricercatrice, sta facendo un dottorato di ricerca, è stata per anni anche giornalista, il suo dottorato di ricerca in Italian Culture è alla York University di Toronto. Nel corso della sua permanenza in Canada in questi 12 anni, Daniela Sanzone ha anche fatto un incontro. E in Canada hai anche messo su famiglia, come si dice in gergo. Con chi? Con un canadese? No, con un italiano. Per pura coincidenza, naturalmente, io non sono venuta in Canada per rimanere, o almeno non pensavo, ero venuta per stare alcuni mesi e poi la mia vita è completamente cambiata. Ho conosciuto un italiano di Parma, io sono di Roma, e niente, ci siamo sposati, adesso abbiamo una bambina di 5 anni. Quindi tua figlia è italiana o è canadese dal punto di vista della cittadinanza? Dunque, mia figlia è nata canadese perché è nata in Canada ed è nata italiana perché è nata da genitori canadesi, quindi lei automaticamente al momento della nascita aveva due cittadinanze, italiana e canadese, e i suoi genitori comunque al momento della nascita erano entrambi sia italiani che canadesi, perché noi abbiamo acquisito la cittadinanza canadese vivendo qui dopo alcuni anni che si vive in Canada. Dopo 3 anni si è residenza permanente, si può acquisire la cittadinanza canadese. Ma quello che ha determinato l'essere canadese di tua figlia non è il vostro essere canadesi, ma è il suo essere nata sul territorio. Esattamente, siccome è nata qui, lei automaticamente ha la cittadinanza canadese. Naturalmente si sentono anche italiani, è un discorso molto complesso, viviamo in un mondo globale in cui ci sono... Ma perché è importante poi avere in tasca quel passaporto o quel documento che certifichi quell'appartenenza? È importante perché, per primo di tutto, perché ti dà un'opportunità nella vita, e poi perché tu comunque ti senti sempre che appartieni a quel paese. Cioè, se mia figlia nata qua non avesse il passaporto canadese, crescendo si sentirebbe completamente scollegata, perché lei è canadese, è nata qui, e lo dico anche che certe volte anche mi stupisce, io che ho una figlia canadese come italiana, nata in Italia, cresciuta in Italia, però è così. E avere quel passaporto è importante per lei, sarà importante per lei. Adesso mia figlia ancora è piccola, ma io l'ho visto appunto anche parlando con molti ragazzi che crescendo hanno tutto di canadese, ed è giusto che loro lo siano canadesi, perché sono qui. E quindi penso che la stessa cosa sia per chi nasce in Italia, perché l'Italia è una nazione storicamente paese di invasioni, di immigrazione. Quindi non capisco questo è un mio personale giudizio, non capisco questa esigenza di mantenere i diritti sanguigni in un posto dove comunque ci sono stati dei movimenti di persone, di popoli da sempre. E poi comunque c'è anche da dire che la cittadinanza, chi è nato in un posto la dà anche un po' per scontata, chi invece l'acquista, per esempio, si sente la sente più profondamente e seriamente, in un posto come il Canada, essere nato qui da genitori stranieri ti dà ancora più il senso di appartenere a questo territorio, perché ci sei nato e perché, quindi penso che la stessa cosa possa essere per stranieri che vivono in Italia e che cominciano una nuova vita in un posto. Avere dei figli che nascono e hanno la cittadinanza in quel territorio rappresenta qualcosa di estremamente importante per dare un contributo fondamentale, importante nel territorio in cui si vive. Grazie mille Daniela Sansone. Di niente, a presto. Era una voce che appartiene a quelli che vengono definiti cervelli in fuga. In realtà lei c'era andata per starci poco, poi c'è rimasta all'estero, come succede a tantissimi anche di coloro che in Italia arrivano per un incarico, per un lavoro, per la ricerca di un innalzamento dal punto di vista economico, e non hanno in mente in quel momento necessariamente di fermarsi per sempre. Poi le cose della vita si intrecciano, a quel punto è importante, secondo questa testimonianza, avere un senso d'appartenenza, soprattutto se poi si hanno dei figli, e sentire che si fa parte di quella comunità, sentire che si fa parte di quella società e che da quella società si è stati anche riconosciuti, un valore intrinseco della cittadinanza giudicato molto importante da coloro che lo richiedono. Ci segnalano tantissimi ascoltatori anche i tempi troppo lunghi dal momento della richiesta al momento dell'ottenimento, così come sono bizzarri e simpatici anche i test ai quali alcuni aspiranti alla cittadinanza italiana sono stati sottoposti. Sarebbe carino capire se noi italiani supereremmo questo tipo di test. Sono di questo tenore: hai una tendenza politica? Quale partito italiano è più vicino ai tuoi interessi? Ti dà fastidio vivere in un paese cattolico anziché musulmano? E se tua figlia va a convivere con un italiano, come reagisci? Questa è la domanda numero 36, prefettura di Bologna, a due passi da Piazza Maggiore, come ci sottolinea un articolo del Fatto firmato Thomas Mackinson di qualche giorno fa, che segnalava proprio questi quiz politici che poco hanno a che vedere probabilmente con l'abilità o la capacità di rimanere a vivere in un paese ottenendone la cittadinanza. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Stiamo parlando di cittadinanza, tantissimi gli stimoli. Professoressa Bertocchi, i test per l'acquisizione della cittadinanza, quali principi dovrebbero essere improntati, sempre guardando fuori, guardando ai modelli europei? Diciamo una verifica della comprensione dell'atto che l'individuo sta compiendo, no? Di cercare di far diventare parte di un paese con le sue regole, la sua cultura e così via. Insomma, non dovrebbe sicuramente essere un interrogatorio. Mi ha sorpreso, non la conoscevo, diciamo, direttamente l'esistenza di test, di quiz di questo tipo, ma mi ha sorpreso perché sono di carattere, insomma, potenzialmente indagatorio e anche discriminatorio. E soprattutto non sono uniformi sul territorio italiano, questa è un'altra anomalia tutta nostrana, perché quelli che abbiamo letto erano i quesiti tratti da alcuni test che sono stati sottoposti agli stranieri a Bologna. Sentivo. Ma nemmeno il Ministero degli Interni sa cosa domandassero esattamente i poliziotti in quella questura dove si stava facendo questo test, e quindi la necessità anche di un comportamento uniforme. Diamo la parola agli ascoltatori per tornare tra pochissimo con lei e con un altro ospite che tra poco vi presenteremo. Intanto andiamo a Milano da Alvise, buongiorno. Pronto? Buongiorno, sono io. Alvise, ha una linea decisamente disturbata, cerchi di essere sintetico, scusi. Eccomi. Quanti allora, anni ha? Io ho 47 anni. Sì. Senta, io da 21 anni che sono qua. Dopo che ho maturato i 10 anni di residenza, ho fatto la domanda per la cittadinanza. E 7 anni che sto aspettando, non fanno altro, ho fatto tutti gli accertamenti e tutto, non fanno altro che dirmi che sono stati acquisiti i pareri la sua posizione in fase di conclusione, ma questo è da 2 anni che sto sentendo questa cosa qui. Ma a chi si rivolge, scusi? Il Ministero degli Interni? Alla Questura di Milano? La Prefettura e anche il Ministero degli Interni, quindi non so neanche rivolgermi, ecco. C'è anche questo problema, che a seconda dello sportello a cui si bussa poi si ha una richiesta di presentare una certa documentazione oppure un'altra diversa. Ma il fatto che sono stato anche adottato nel frattempo dei genitori italiani. Allora, dopo l'adozione, praticamente dopo 4 anni tu puoi chiedere la cittadinanza. Invece? Ora mi sento bloccato. Perché? Ho fatto i 10 anni, ho presentato la domanda e non posso adesso presentarla dopo l'adozione. E non so cosa fare, ecco. Sì, grazie Alvise. C'è questa contraddizione, questa confusione spesso che cozza con la complessità delle situazioni personali, perché quello che si dovrebbe ottenere è un appuntamento in un ufficio di immigrazione con un funzionario che discuta e prenda in esame caso per caso quella possibilità di acquisire, concedere, negare, insomma, la cittadinanza a seconda delle caratteristiche del soggetto, però con procedure che siano uniformi, che si trovino su internet, a prescindere da quale città o da quale località d'Italia si cominci a indagare. Pronto, buongiorno Francesco. Sì, buongiorno, sono Francesco. Niente, io mi riferivo a quello che la sua ospite aveva detto prima in relazione all'Irlanda, sì. Ovvero che si era creato un problema e di turismo dell'immigrazione. Del turismo dell'immigrazione, ma soprattutto il fatto che se uno diventa cittadino irlandese o italiano, francese o tedesco che sia, diventa conseguentemente anche cittadino europeo. La mia domanda è questa: ma allora non è il caso che questa legge di immigrazione sull'avere o meno la cittadinanza sia il caso che sia una legge a livello europeo e non del singolo Stato? Perché se io acquisisco dei diritti italiani piuttosto che francesi, acquisisco anche dei diritti europei, è giusto che la cosa sia a livello europea. Dato che ci facciamo la bocca larga, siamo in Europa, tutto per l'Europa, allora anche questo deve essere una cosa a livello europeo. Grazie, grazie Francesco. Professoressa Bertocchi. Sì, rispondo volentieri. Sarebbe giusto, ci sono dei principi molto generali che sono adottati da tutti i paesi europei. Faccio un esempio che non riguarda la cittadinanza alla nascita. I 10 anni richiesti per fare domanda di naturalizzazione per uno straniero maggiorenne sono il limite massimo tollerato, quindi l'Italia è al limite massimo, no? In altri paesi europei sono 3-5, noi siamo al limite massimo, questo è solo per dire che esistono dei limiti al numero di anni e il limite è 10 per quel tipo di procedura. Però tornando alla domanda più diretta dell'ascoltatore, sebbene sarebbe auspicabile questa omogeneizzazione delle legislazioni a livello almeno europeo, siamo anni luce. Diciamo che la legislazione della cittadinanza è una delle questioni più delicate e su cui gli stati sono più gelosi, diciamo, della loro autonomia. Siamo quindi non la si può imporre. Sicuramente non la si può imporre sulla sovranità nazionale. No, siamo veramente, sarebbe una richiesta al momento veramente che nessun paese esplosiva. Non ci sarebbe più nessun bisogno di referendum sull'appartenenza o meno all'Europa. Certo, ma come dicevo prima, i regimi misti che stanno emergendo in Europa, li chiamo misti per semplificare, ma sono letteralmente uno diverso dall'altro. Quindi, sebbene sarebbe auspicabile, ripeto, siamo anni luce, non c'è nessun tipo di proposta di arrivare in tempi brevi a un'unificazione a livello europeo, anzi ci sono dei paesi europei che si stanno spingendo sempre più verso forme di ius sanguinis di fronte alla potenziale pressione dell'immigrazione, quindi non è neanche vero che ovunque c'è la stessa tendenza, diciamo, ad aprire. E quali sarebbero questi paesi? Ma i paesi, per esempio la Svizzera che già citavo prima, è saldamente ius sanguinis, preserva questo principio in modo adamantico, ma anche in tutti i paesi dell'ex Europa dell'Est, quando questi paesi furono di nuovo formati, riformati con la loro identità nazionale, si adottarono forme di ius sanguinis estreme che discriminavano verso le etnie, per esempio, di origine russa, che erano percepiti in questi paesi un po' come le forze di occupazione. Chiaro, no? Chiaro che poi la storia e la politica si intrecciano. Comunque, sì. a questioni che a volte dovrebbero, chissà, semplicemente prendere in considerazione la demografia. E dal punto di vista demografico... Se posso aggiungere una questione, lei ha intervistato molti degli ascoltatori che hanno parlato di tanti motivi per acquisire la città, di tanti buoni motivi per acquisirla, no? Non necessariamente alla nascita che era il punto originario, ma il motivo vero, io sono un economista, no? È che dal momento che già da residente non serve la cittadinanza, basta la residenza per dover pagare le tasse, no? Il problema è che invece le tasse le decidono i cittadini con il voto, quindi il motivo principale per cui vivere, lavorare in un paese dovrebbe dare un diritto alla cittadinanza è che solo con la cittadinanza si può votare sulle leggi dello Stato. Ci si può esprimere appieno. Abbiamo questa situazione che lei ci ha descritto, queste proposte che sono varie. Abbiamo cercato di tenere fuori, come dire, la politica nel senso partitico oggi dalla discussione e illustrare quali sono le possibilità, quali sono i vantaggi, i benefici dell'ottenimento della cittadinanza e gli ostacoli che invece si hanno quando questa cittadinanza non la si ha del paese in cui si vive, naturalmente. Ma dal punto di vista demografico, quali sono i rischi, i problemi, perché noi in Italia abbiamo una legislazione ancora così restrittiva, rischi se ce ne sono, e dunque abbiamo deciso di chiederlo a un docente emerito di demografia. Buongiorno, grazie per essere intervenuto, professor Antonio Golini. Buongiorno a lei e a tutti. Tra l'altro presidente pro tempore dell'Istat, ma oggi nostro ospite in quanto demografo, in quanto studioso. Cittadinanza e proposte, se ne sta parlando in realtà poco, perché non si entra quasi mai nel merito. Dal punto di vista, dal suo osservatorio di studioso dei movimenti e dei flussi migratori, cosa converrebbe anche dal punto di vista economico all'Italia? Un'apertura, una chiusura? Dunque, converrebbe tentare di gestire il fenomeno e quindi una saggia ed equilibrata apertura. Mi spiego. Noi abbiamo in Italia circa 1 milione di minori, di figli di immigrati, soprattutto extracomunitari, e questi immigrati, questi ragazzi immigrati, vengono, questi qui che nascono in particolare in Italia, vengono assistiti da tutti i punti di vista dalla collettività italiana. Mi spiego, quando le donne vanno a partorire in un ospedale lo fanno gratuitamente perché la salute in Italia è assicurata come diritto costituzionale e quindi a livello universale e a prescindere dal colore della pelle o dalla situazione dei documenti, diciamo così. O dalla struttura del cognome, diciamo, o dei documenti. E poi questi bambini continuano a crescere in Italia a valersi, per esempio, dell'assistenza sanitaria, ma soprattutto hanno l'obbligo, come è giusto che sia, di obbligatoriamente studiare nel nostro paese. Ora, l'assistenza sanitaria e l'istruzione scolastica sono questioni che costano molto e pagano i contribuenti italiani. E allora sembra a molti di noi che ci sia un straordinario paradosso nella circostanza che noi paghiamo per la salute e l'istruzione di questi ragazzi e poi li teniamo fuori dal circuito della cittadinanza. Così, per esempio, è capitato che a una bambina di origine cinese che è nata e vive in Italia e che aveva vinto le Olimpiadi della matematica in Italia e che si è andata a rappresentare l'Italia a Parigi, non poteva più tornare in Italia perché era considerata immigrata clandestina. Voglio dire, questo significa... Questo è una punta dell'iceberg, diciamo così, ma è molto rappresentativo dello spreco dei talenti umani che tra l'altro questa chiusura comporta. Esatto, e delle risorse economiche che abbiamo impiegato che impieghiamo per tirar su questi ragazzi. Fra l'altro, dal punto di vista demografico, è ben noto che l'Italia da molto molto tempo, alcuni decenni, soffre di, come dire, di anoressia demografica e quindi di uno straordinario ridotto numero di nascite, e per cui abbiamo una popolazione giovanile che è fra le più basse d'Europa o la più bassa insieme con la Germania, e quindi anche dal punto di vista demografico noi avremmo bisogno di rinsanguare le nostre scarsissime leve con questi ragazzi. Ma al di là di questo, che pure è una questione, un aspetto rilevante, c'è il problema etico che è stato sollevato prima. Su questo la fermo però, professore, perché lo approfondiamo tra poco. Ora lei ci ha citato due punti: abbiamo 1 milione di minori sui quali già investiamo risorse, che vanno dal parto della madre all'assistenza sanitaria all'obbligo del percorso scolastico, abbiamo un'anoressia demografica, e poi teniamo questi ragazzi fuori dal circuito della cittadinanza, e poi aggiunge lei problema etico. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, 47 minuti dopo le 9. No, non lo stiamo affrontando il problema dal punto di vista dell'ordine pubblico, come ci segnala qualcuno, né dal punto di vista della criminalità, perché quelli erano aspetti che esistevano e hanno accompagnato anche l'emigrazione degli italiani all'estero. Non è vero che fossimo poi tutta brava gente, basta controllare la statistica delle galere d'oltreoceano o dei paesi in cui siamo andati a finire, dall'Argentina agli Stati Uniti, al Belgio, alla Germania, quando l'italiano che emigrava era in condizioni che l'avrebbero portato poi a condurre una vita quantomeno difficile, quindi a che fare più con la situazione in cui ci si trova, socio-economica naturalmente, che con l'etnia di provenienza. Non stiamo discutendo di questo tipo di cose, stiamo parlando di minori nati in Italia, cresciuti in Italia, con un percorso scolastico che li accomuna ai figli degli italiani, che però non hanno gli stessi diritti. Ebbene, conviene dal punto di vista anche economico, dal punto di vista di un paese, e lo stiamo chiedendo a un demografo, il professore emerito di demografia e presidente pro tempore dell'Istat in questo momento, ma noi l'abbiamo convocato in quanto studioso, Antonio Golini. Arriviamo all'aspetto etico sulla quale l'avevamo interrotta, professore. Stava dicendo, c'è un aspetto etico, e come sì, lo spiega? Eh sì, perché voglio dire, noi abbiamo il diritto dovere nei confronti di questi ragazzi nati in Italia e cresciuti in Italia di assicurare loro, come lei diceva nel fare la sintesi, diritti e doveri rispetto ai ragazzi italiani. Ora, scusi, ai ragazzi nati in Italia. Perché italiani sono anche questi, lei dice, esatto. Al di là del passaporto, assolutamente, come cultura, accento, conoscenze, riferimenti. Quindi dicevo che dal punto di vista etico è una questione di assicurare gli stessi diritti e doveri, e poi c'è un altro aspetto che non so se sia etico, ma forse politico-morale, e cioè quello di garantire a questi ragazzi una sana e giusta collocazione in un contesto politico-sociale, perché questi ragazzi non possono più sentirsi evidentemente figli della terra dei loro genitori, perché sono nati in Italia, vissuti in Italia, cresciuti in Italia con cultura italiana e con amicizie italiane, e non possono sentirsi italiani perché la legge non glielo riconosce, e quindi noi creiamo una generazione e generazioni di persone sbandate, tra virgolette, quantomeno sotto il profilo psicologico, ma anche poi politico, e questo è un rischio anche per il paese. E allora il profilo etico è quello di assicurare, come giusto che sia, gli stessi diritti e doveri e sotto il profilo politico-sociale quello che ho appena detto. Grazie, grazie al professore Antonio Golini, è un'istantanea molto dettagliata e precisa la sua, vogliamo sentire anche come la pensate voi. Viorelle, buongiorno. Buongiorno, sì. Io sono un cittadino rumeno, sono vivo in Italia dal 1997, mi sono sposato qui, ho 5 figli nati tutti a Bergamo, vivo qua, solo che loro non hanno ancora cittadinanza. Ho provato di Si è sposato con una cittadina italiana o con persona straniera? No, è una mia connazionale, anche lei da minorenne qui, ci siamo conosciuti in chiesa a Roma, poi ci siamo sposati. E quindi avete 5 figli che non hanno la cittadinanza italiana? No, sono nati tutti qui a Bergamo. Parlano il rumeno? Un po' di casa, ma giusto così per... Ma parlano di più il bergamasco, dice lei. Capiscono di più il bergamasco. Italiano proprio, anche tra di loro, quando io e mia moglie non ci siamo, loro parlano comunque italiano. E quindi fa fatica a immaginarli come rumeni, cioè se un giorno, come invoca una certa frangia della politica italiana, si dovessero chiudere le frontiere e tornare tutti a casa, i suoi figli, qual è quella che considerano casa? Ma la considerano qua, perché io ogni anno, ogni 2 anni, quando vado là, dopo 10 giorni, già, quando è che torniamo a casa? Certo, chiarissimo. Grazie Viorel, devo invitare purtroppo tutti alla sintesi, ma voglio sentire questi ascoltatori da Terni, per esempio. Ci spostiamo da Bergamo a Terni, dove c'è Giorgio. Pronto? Buongiorno. Sì, Giorgio. Niente, allora io sarò breve. Allora, prima cosa voglio subito sfatare il discorso degli Stati Uniti d'America, perché gli italiani quando andavano negli Stati Uniti d'America non godevano dei diritti che adesso godono i migranti in Italia. Cioè quali sarebbero questi diritti di cui godono i migranti in Italia che mancavano negli Stati Uniti? Innanzitutto la sanità, perché non è vero che noi là eravamo accuiti come qua. Io sono andato a New York a vedere il museo dell'immigrazione, eravamo trattati come bestie. Quindi, poi per esempio le case popolari, io chiamo da Terni, ma a Perugia le posso dire che su 70 case popolari 10 sono destinate ai italiani. Quindi io questa discriminazione che voi dite non la vedo assolutamente. Cioè lei segnala delle corsie preferenziali per gli immigrati che vivono in Italia, Giorgio? Sono così perché le case popolari sono assegnate per reddito e per numero di figli. Spesso questi immigrati lavorano in nero, quindi non hanno reddito, vengono con molti figli e quindi in automatico scavalcano il povero onesto cittadino lavoratore che non gliela fa prendere neanche la casa popolare. Seconda cosa, non è vero che chi nasce in Italia attualmente sposa la cultura italiana, perché le posso fare l'esempio della comunità cinese. La comunità cinese spesso non parla neanche l'italiano, i figli non parlano l'italiano e spesso dopo aver fatto quello che vogliono fare tornano in Cina. E io sinceramente non ho mai visto una nazione che... Invece lei vorrebbe che rimanessero? No, io vorrei che chi viene in Italia l'integrazione venga fatta al contrario, cioè che loro, essendo una minoranza, si integrino a una nazione che da 200 e vadano a cercare anni, corsi di italiano che non si trovano in giro. Quello mi sembra il minimo. Quello mi sembra il minimo, dal momento che tu stai in Italia dovresti almeno parlare l'italiano, magari aiutandoli anche noi, ma hanno anche quelli, perché se guardate dentro i sindacati, specialmente la CGIL, vedrete che fanno corsi gratis per migranti. Quindi io questo... perché mi sento un po' offeso, capito? Perché dalla discussione sembra che gli italiani sono un popolo di razzisti. Ho capito. Invece, ecco, no, veramente non era questa l'impostazione della trasmissione e ogni opinione è bene accolta. Grazie Giorgio, abbiamo capito benissimo il suo punto, tra poco risponderemo. Concludiamo col nostro giro per dare la parola a tutti prima che il programma termini. Stefano, pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Invece lei dove si trova, scusi? Io sono in provincia di Roma. Provincia di Roma, dica. Sì, dunque io sono diciamo parzialmente d'accordo con l'amico che ha parlato. Giorgio. Sì, Giorgio, prima di me. Il discorso è questo, è che spesso si rischia di fare demagogia. Innanzitutto questo è un problema europeo e non solo italiano e quindi andrebbe affrontato con una regolamentazione europea. E poi bisogna pensare a questo, cioè noi siamo in una situazione purtroppo socio-economica molto precaria, noi italiani. Se all'improvviso venisse concesso lo ius soli, così, sic et simpliciter, guardi, io glielo dico, ho lavorato nella sanità e le vedo queste cose, noi avremmo una pressione economica in termini di assistenza sociosanitaria enorme, che non siamo in grado assolutamente di... Grazie, non grazie. Abbiamo lavoro neanche per i nostri. Stefano, grazie mille. Ora, mi sembrava che Golini avesse risposto puntualmente a questa cosa. Innanzitutto, la situazione, l'assistenza sanitaria, la si deve a tutti in Italia, per fortuna, e non cambierebbe il fatto che chi assisti abbia o meno in tasca il passaporto italiano. E poi è un fattore anche economico che in molti paesi è digerito come tale anche dall'opinione pubblica, l'immigrazione, se si trovano qui queste persone, è anche perché servono all'economia italiana, non è certo per benevolenza o paternalismo che sono state aperte le frontiere, ed è un fattore economico il riconoscimento di un'appartenenza a un segmento della popolazione che altrimenti, se escluso, creerebbe grossi problemi. Partono dallo psicologico, ha segnalato Golini, ma poi si trasformano in situazioni di disagio anche decisamente pericolose. Professoressa Bertocchi, grazie per il suo contributo, grazie al professor Golini, grazie a tutti voi che avete chiamato. Ius soli, ius sanguinis, la domanda che ci siamo posti oggi: cosa cambia in concreto? In parte abbiamo risposto e ci torneremo nel corso di successive trasmissioni. Per ora ci fermiamo, ringrazio Elisabetta Fusconi in redazione insieme ad Alessandro Marco Tulli, ringrazio Carmelo Lauricella, Roberto Scaltritti che hanno reso possibile questa trasmissione con la loro pazienza in regia. Io sono Irene Zerbini e vi auguro buona giornata.